perché sennò. Ed eccoci qua, siamo in diretta da Fiera Immensa di Cosenza, nell'area dell'ex officina delle Ferrovie della Calabria. Siamo per la penultima puntata, perché Fiera Immensa si conclude proprio domani, il 19 di marzo. Questa sera noi andremo in onda all'incirca fino alle ore 20:30-21, giusto in tempo per lanciare una fantastica trasmissione, la trasmissione tendenzialmente queer di Salute e Felicità, una trasmissione che noi che amiamo moltissimo e ci piace proprio assai, e quindi salutiamo soprattutto Frodo, finalmente voglio fare nomi, e tutte le compagne e tutti i compagni della trasmissione Salute e Felicità. Che cosa è successo oggi? Ebbene sì, oggi ci sono state già le prime scene di panico. Le prime scene di panico perché è uscita anche una scritta sul mio computer che dice Tollbar imminent, una porcheria che mi si è installata e non sono riuscito mai più a toglierla, evviva. Comunque, che cosa è successo oggi? Oggi transizione di fase è stata illustrata ad un gruppo di di volontari di Fiera Immensa, costituiti prevalentemente da, lo dico, mi sputtano, che dici? Non mi sputtano, che quindi d'ora in poi non sarò più un media attivista, io lo so. dunque, media attivista, vabbè, niente. E dicevo, transizione di fase, i progetti vari di informazione dal basso, autistici, indie media e via dicendo, sono stati illustrati a un folto pubblico di volontari delle parrocchie e di Boy Scout. Ora ditemi se questa non è grandezza, questa. Io penso che solo io potevo fare una cosa del genere. È stata veramente un'esperienza fantastica. Abbiamo anche parlato di Salute e Felicità, dobbiamo dire, di Tortuga, di Banda Armata, di Mozilla, insomma abbiamo un po' nominato i vari programmi che si tengono in questo contenitore che è transizione di fase. Intanto dalla chat un innominato, a questo punto non lo nomino, che ci parla di una irruzione svelica. Sì, ebbene sì, questa è proprio una irruzione svelica, e sempre che facciamo un saluto a pugno, un saluto sinistro, diceva Ciccio Svelo. Tu lo sapevi? No, non lo sapevo. Le mail di Ciccio Svelo si concludevano con un saluto sinistro, valla capì, insomma. Ora è uscita un'altra scritta sul mio computer che parla, dice così, consenti a programma? No, no, perché poi parte non consentire, no. Se no parte tutto l'aggiornamento e poi devi riattivare, perché questo è Windows, non è Linux, quindi devi riattivare sempre per avere le... Non lo so... I cazzi di tecnici, se è Linux non riavvii, se è Windows riavvii, perché l'aggiornamento consente, si fa solo con, e poi si blocca tutto e sti cazzi. Non sempre così. No, ma questo sì, te lo dico io che con Java aggiornamento non lo vogliamo fare. Un saluto a pugno chiuso, quello sinistro, è vero, era così. Un saluto a pugno chiuso, quello sinistro, mi ricordano dalla chat. E questo è il saluto tipico del nostro compagno che abbiamo ricordato, Ciccio Svelo, del quale è ricorso, facciamo una cosa un po' seria, negli scorsi giorni è stato il compleanno di Ciccio e noi insomma siamo... questa cosa ci ha molto colpito, insomma, e niente... Allora, dicevamo, questa sera è già successo questo momento di formazione che, per i volontari della fiera, che hanno potuto capire che cosa significa creare una web radio dal basso. È stato un po' raccontato quelle che sono state un po' raccontate le vicende di transizione di fase, più o meno come è nata. Gli scleri, vabbè, insomma in maniera molto sintetica, perché raccontare tutti gli scleri di transizione di fase sarebbe stato certamente molto affascinante, ma anche molto, come dire, molto lungo come discorso. Bene, vi ricordo sempre che siete all'ascolto di Transizione di Fase, diretta da Cosenza per Fiera Immensa, dall'area occupata delle ex officine delle Ferrovie della Calabria, un'area dove si trovano veramente tante realtà diverse, dal Cippio Arialzo, un centro sociale, alle officine Babilonia, un'associazione che si occupa di arte sicuramente molto laica, nella quale si realizza anche un altro programma che sta per giungere su transizione di fase, cioè figli di un programma che, del quale avete potuto ascoltare solo la puntata meno di 0 e 0, però è in corso di lavorazione un'altra puntata, la puntata numero 1 finalmente di Figli di. Mi faccio dunque un po' di pubblicità per questo fantastico programma che a breve ascolterete, che viene, come vi dicevo, registrato, prodotto all'interno delle officine Babilonia. E poi in quest'area, come dicevamo anche negli scorsi giorni, ci sono altre associazioni di natura cattolica. Chiediamo al nostro tecnico che cosa ne pensa delle associazioni di natura cattolica. Lo ha chiesto espressamente lui di commentare. No, sì, ho chiesto assolutamente questo. Comunque, vorrei censurare il mio intervento. Non lo censurare, no. Non lo so, mi astengo da... Diciamo che sono simpatici. Non lo so. E vabbè, sono simpatici. L'ironia tante volte, insomma, ci consente di spaziare nei termini italiani e questo ci piace molto continuare a spaziare anche nella rete e nella informazione dal basso. E questa sera intanto la musica dal banchetto del rialzo ci giunge qui, e prima abbiamo potuto addirittura ascoltare un po' di musica Torretta style, cioè la musica dei cartoni animati, il che ci ha un po' inquietato perché insomma era un certo, faceva un certo effetto. Intanto qui siamo nel nell'internet social point allestito dall'associazione Verde Binario. Abbiamo anche ascoltato qualche esponente di Verde Binario che negli scorsi giorni ha un po' parlato soprattutto di basket. Non c'entra niente con Verde Binario, ma ci sta lo stesso. Bene, io direi che insomma, dopo questa prima introduzione forse ci possiamo prendere un po' di pausa, perché poi dopo ci aspetterà una tirata di una mezz'ora intera nella quale dovremmo parlare a forza. Quindi ora io direi di mandare un po' di musica. E sempre, ecco qua, mi dice anche, ma tutti gli aggiornamenti ora escono su questo, caspita, chiedi in seguito, non lo vogliamo aggiornare Firefox, no, e guarda un po', è uscita questa porcheria, un attimo, ops. E niente, chiediamo al nostro tecnico se riesce a fare il miracolo di far uscire, di far allontanare questa porcheria. Ecco qua, bene, è uscita una cosa tutta rosa sul mio schermo. Ok, ma stiamo streamando? La domanda è, forse non stavamo streamando più? Ma stiamo streamando? No, è qua. Ok, e ora non streameremo più un po' di musica, quindi...